Nunzio Veselovski, il Papa rimuove un vescovo accusato di aver coperto abusi sessuali. I raid americani colpiscono petrolio e raffinerie nelle mani dell'ISIS, mentre si alza l'allerta terrorismo anche in Italia. A Londra 9 arresti di presunti jihadisti. Se i sindacati si arrabbiano, non è un problema, dice Renzi al Wall Street Journal. Si ammorbidisce la posizione della CGIL sul lavoro, lunedì la direzione del PD. Polemiche sul cambio di mansioni del comandante De Falco, quello della notte della Costa Concordia. Lui si dice amareggiato. Il primo risarcimento per il sovraffollamento carcerario va ad un condannato per sfruttamento della prostituzione minorile. Ne parleremo col Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Ancora due squadre sole al comando nel campionato di Serie A. Questa sera in campo all'Olimpico di Roma, Lazio e Udinese. Buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete scriverci, come sempre, Effetto Giorno, @radio24.it, durante la trasmissione il 349-238-6666. In apertura dunque la nuova mossa del Papa contro la pedofilia. Era accusato di malversazione e copertura di abusi sessuali commessi da preti nella sua diocesi. Per queste ragioni il Papa ha rimosso dalla diocesi Ciudad del Este in Paraguay Monsignor Rogelio Riccardo Livieres Plano, nominando al suo posto come amministratore apostolico Monsignor Jorge Valenzuela Rios. Una decisione, quella del Papa, comunicata a soli due giorni dal clamoroso arresto dell'ex nunzio a Santo Domingo, Veselovski, e che si colloca nel solco della linea della tolleranza zero non solo nei confronti di chi ha commesso abusi, ma anche nei confronti di eventuali omissioni da parte di esponenti della Chiesa. Quanto a Veselovski, rischia almeno 6 o 7 anni di carcere, anche se il processo non partirà prima di qualche mese. C'era il rischio che potesse fuggire o inquinare le prove, per questo il Papa ha accelerato i tempi, spingendo per il fermo. All'esame dell'ex Sant'Ufficio, inoltre, ci sarebbero altri casi di vescovi coinvolti in vicende di abusi, almeno due, che non essendo tuttavia cittadini vaticani, non rischiano il processo penale, ma solo quello canonico. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche di questo torneremo a parlare nella seconda parte della trasmissione intorno alle 13.30 con un vaticanista per un commento, per un'analisi su quello che sta succedendo. Noi adesso però torniamo a parlare di ISIS e jihadismo internazionale. In queste ore le notizie di azioni militari, di azioni di polizia e di nuove violenze si stanno accavallando, mentre ieri in altri luoghi rispetto a quelli dove si sta bombardando, in Algeria è stato ucciso un ostaggio francese, come sapete, a Londra sono scattati una serie di arresti e si è alzato l'allarme anche in Italia. Sul fronte dell'azione internazionale restano sul campo le parole di ieri di Barack Obama. Questa volta gli obiettivi colpiti sono stati una dozzina di piccoli impianti petroliferi in mano all'ISIS, bombardati da americani, sauditi e degli Emirati. Siti importanti perché è con quegli impianti che i terroristi si finanziano. In mattinata invece aerei da combattimento francesi hanno sorvolato l'Iraq in vista di un possibile nuovo raid. A dirlo il ministro della difesa. La Francia partecipa da una settimana all'azione americana contro gli jihadisti in Iraq, ma ufficialmente ha compiuto sinora un solo raid venerdì scorso. Quanto ad un eventuale intervento anche in Siria, Hollande ieri ha ribadito: il regime siriano è complice di quanto sta accadendo. Finché non ci sarà una soluzione politica, i nostri sforzi saranno limitati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Viviamo il periodo più pericoloso dall'11 settembre del 2001. Rimbalza da New York a Parigi, passando anche per Londra e Roma, il nuovo allarme legato al terrorismo islamico. Visto il sostegno alla coalizione che sta bombardando le postazioni dell'ISIS, anche l'Italia è esposta ai rischi di ritorsioni da parte dei gruppi jihadisti. Lo ha ribadito anche ieri il ministro dell'Interno Alfano, che ha diramato una circolare a prefetti e questori chiedendo di rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza attorno agli obiettivi sensibili. Il grado di allerta è stato alzato anche negli altri paesi europei e a Londra stamattina sono stati fermati 9 uomini sospettati di appartenere ad un'organizzazione legata al terrorismo islamico. Secondo Scotland Yard, l'operazione è frutto di un'inchiesta e non di una minaccia immediata. Fra gli arrestati c'è anche un predicatore radicale che in passato era stato in contatto con uno dei due terroristi che nel maggio dello scorso anno in un sobborgo di Londra uccisero un soldato decapitandolo in strada con una mannaia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E Matteo Renzi sarà anche oggi a New York, dove interverrà l'Assemblea delle Nazioni Unite e anche di Iraq e Siria, è prevedibile che parli, ma nelle sue dichiarazioni della giornata di ieri e di oggi, con un'intervista al Wall Street Journal, quello su cui è tornato è la riforma del mercato del lavoro, e di nuovo con parole piuttosto dure. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così il tema della riforma del lavoro, Simone, che vive in queste ore di frenate ed accelerazioni a seconda delle varie dichiarazioni. Ieri l'apertura, lo ricordiamo, da parte della CGIL sull'articolo 18, la Camusso difende il diritto al reintegro, ma si dice disponibile a discutere sul numero degli anni in cui lasciarlo sospeso. Capisco che ci sia una stagione in cui l'articolo 18 non vale, ma è necessario che sia transitoria, spiega il numero 1 della CGIL. Da New York, lo ricordavi, il Presidente del Consiglio Renzi ribadisce tuttavia la sua posizione: la riforma del lavoro non è rinviabile. Quanto ai sindacati, il Premier in un'intervista al Wall Street Journal spiega: la riforma in Italia è una priorità e se i sindacati sono contro, per me questo non è un problema. Sul Jobs Act è intervenuto intanto questa mattina il ministro del lavoro Poletti. Ascoltiamolo allora al microfono di Alessandra Schepisi. Noi abbiamo bisogno di certezza, noi abbiamo bisogno di robe semplici e chiare, non possiamo fare pasticci all'italiana, perché quando discutiamo nel merito delle cose poi per metterci d'accordo pasticciamo, dei pasticci non ne possono essere fatti, non ci si può fermare davanti a dei tabù, noi abbiamo bisogno di dare fiducia e dare chiarezza perché ci siano investimenti, vogliamo andare avanti nei tempi che ci siamo dati. Basta pasticcia all'italiana e tabù, dunque le parole di Poletti. Chiudo, Simone, ricordando che il Jobs Act ha preso il via in aula al Senato, sono 689 gli emendamenti. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Naturalmente tutto questo si collega a questioni politiche interne al Partito Democratico, che dovrebbero essere sciolte nella giornata di lunedì, anche se da parte della minoranza insomma circolano voci di un possibile ammorbidimento, per così dire. Elisabetta Fiorito, è così? Ma sì, intanto c'è imbarazzo per la proposta di Beppe Grillo ieri fare una battaglia insieme per evitare modifiche all'articolo 18, ma tra i dissidenti PD si attende anche la direzione di lunedì. Si cerca intanto di spostare il tiro sulla legge di stabilità, quindi riprendere tempo, aggiungere questo tema alla battaglia della riforma del lavoro. Per Stefano Fassina infatti non è affatto chiaro dove si troveranno 20 miliardi, ricordiamo i 20 miliardi promessi da Renzi nella spending review, compresi quelli per l'estensione degli ammortizzatori sociali. E anche interviene Roberto Speranza sulla possibile scissione dei democratici e dice: non esiste proprio, siamo tutti convinti che la riforma del mercato del lavoro sia importante, ma non è il terreno su cui consumare uno scontro politico tra Renzi e anti-renziani. Tutto questo dicevamo appunto il giorno dopo la proposta di Beppe Grillo, che oggi torna a parlare, interviene per dire ancora una volta no a qualsiasi modifica dell'articolo 18, togliere i diritti ai lavoratori non vuol dire far partire l'economia, senza certezze per Beppe Grillo, il lavoratore investirà di meno, la banca gli negherà un prestito, è una riforma per ricattare chi lavora ad essere licenziato. E a un certo punto Grillo dice: questo perché ce lo dice l'Europa, ma l'Europa può anche andare a quel paese. Intanto però Renato Brunetta di Forza Italia avverte: se il Jobs Act passa con i voti di Forza Italia, il PD è diviso, si apre di fatto la crisi di governo. A te Simone. E grazie alla nostra Elisabetta Fiorito. L'economia ci racconta di nuovi dati negativi sui consumi, mentre da Berlino si interviene sulle mosse di Draghi. La ripresa non passa attraverso le vendite al dettaglio, almeno per ora. E così i dati sul commercio a luglio sono tutti negativi. Secondo l'Istat, che ha diffuso il rapporto con un'ora di ritardo per le proteste dei precari, le vendite al dettaglio segnano una lieve contrazione, meno 0,1% rispetto al mese precedente. Più pesante la contrazione su base annua, meno 1,5%, con i prodotti alimentari che sono calati del 2,5% e quelli non alimentari dell'1%. L'Istat ha diffuso anche l'andamento delle retribuzioni contrattuali orarie ad agosto, che risultano stabili rispetto a luglio, con un incremento dell'1,1% rispetto ad agosto 2013, che significa battere ampiamente la dinamica dei prezzi negativa dello 0,1% nel raffronto annuo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una presa di posizione netta del governo tedesco tedesco all'indirizzo di Mario Draghi. La Germania è contraria al piano di acquisto di titoli cartolarizzati proposto dalla BCE. La frecciata al presidente della Banca Centrale Europea è partita dall'alto dal ministro delle Finanze Schäuble durante un intervento al Bundestag e arriva pochi giorni dall'attesa conferenza stampa di Draghi, che giovedì prossimo, al termine della riunione del board a Napoli, annuncerà i dettagli del piano di acquisti di titoli ABS emessi da veicoli finanziari delle banche, garantiti da mutui o da prestiti alle imprese. L'obiettivo è di liberare in questo modo i bilanci bancari per rilanciare il credito con 350 miliardi di nuovi acquisti. Ma in più il messaggio cade il giorno stesso in cui il presidente della BCE afferma di aspettarsi una crescita economica europea modesta nel secondo semestre e assicura che l'Euro Tower è pronta ad agire ulteriormente se sarà necessario, adottando ulteriori misure non convenzionali contro i rischi di un periodo troppo lungo di bassa inflazione. Dopo l'intervista di ieri a Radio Europe Ann, Draghi infatti ha sottolineato sul quotidiano lituano Versio Zinos i rischi delle tensioni geopolitiche per imprese e consumatori e che spetta ai governi agire in modo decisivo su credito e disoccupazione con ulteriori riforme strutturali. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Verrà trasferito in un ufficio amministrativo, tra mille polemiche, e a quanto pare il comandante De Falco. Guardi, Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a bordo, cazzo! Ci sono già dei cadaveri, Schettino! Avanti! Gregorio De Falco, il capitano di fregata che la notte del naufragio della Costa Concordia al Giglio ordinò al telefono al comandante Schettino di tornare a bordo, da tutti ritenuto l'eroe di quella tragica notte, è stato rimosso dal suo incarico. Dopo 10 anni di onorato servizio nel settore operativo della Capitaneria di Livorno, dal prossimo mese verrà infatti trasferito in un altro ufficio di tipo amministrativo. Eseguirò gli ordini, ma sono convinto di essere vittima del mobbing, ha dichiarato De Falco in un'intervista a Repubblica. Valuterò azioni legali. Il nuovo incarico che mi hanno assegnato cancella in un attimo 10 anni della mia vita e della mia professione. Non voglio dismettere la divisa, ha spiegato ancora De Falco. È infatti una delle ragioni della mia vita. Ora però sono costretto a pensarci. Vedremo cosa accadrà. Un parlamentare del PD, Federico Gelli, ha intanto già annunciato un'interrogazione al ministro Lupi per conoscere le ragioni del trasferimento. Ma il commento amaro, usando sempre le parole di De Falco, è che l'Italia è un paese storto in cui Schettino va in cattedra alla Sapienza mentre lui viene rimosso dal servizio operativo, quando si dice meritocrazia. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed eccoci con il nostro Carlo Genta. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Allora, almeno fino al 5 ottobre con questo teatrino delle due squadre al comando mi sa che ci andiamo avanti. Sì, andiamo avanti, forse abbiamo già capito tutto, insomma, 4 giornate e possiamo cantare, era già tutto previsto, perché in modo diverso, ma Juventus, e con avversarie diverse, Juventus e Roma non perdono colpi. La Juventus facile 3-0 con il Cesena, con Vidal che torna al gol, doppietta per lui, gol di Erik Steiner. La Roma con molta più fatica e all'ultimo respiro con una meravigliosa punizione di Pjanic, però quando hai giocatori bravi, quando hai giocatori di talento, puoi risolvere le partite anche così, e forse le grandi squadre vincono proprio in questa maniera. La terza forza del campionato è, ma anche qui, quella che ti puoi aspettare, cioè l'Inter che batte 2-0 l'Atalanta, trova un grande gol di Osvaldo, trova anche il gol di Hernanes che fin qui era stato molto deludente, e dà incoraggianti segnali di progresso, di crescita. Poi c'è un'ottima Sampdoria che batte 2-1 il Chievo e che appaia proprio Inter e Verona al terzo posto della classifica, 4 lunghezze sotto Roma Juventus. La grande delusione continua ad essere il Napoli, 3-3 in casa con il Palermo. Probabilmente anche l'attacco di Radio 24 riuscirebbe a segnare qualche gol alla squadra di Benitez in questo momento. C'è il Cagliari ultimo in classifica, anche Zeman non benissimo, rimane ultimo da solo perché perde in casa con il Torino. E stasera la Lazio, no? Stasera la Lazio contro l'Udinese, anche qui è una partita, sono due squadre che, soprattutto l'Udinese che ha appena battuto il Napoli, insomma è una squadra che sta andando forte, anche qui attacco alle posizioni di quelli che inseguono le due irraggiungibili Roma e Juve. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il Papa rimuove un vescovo in Paraguay, l'accusa è di aver coperto abusi sessuali. I raid americani colpiscono le raffinerie nelle mani dell'ISIS e nuovi raid francesi. Questa mattina in Iraq, per Parigi bandiere a mezz'asta per l'ostaggio ucciso. A Londra 9 arresti di presunti jihadisti. Lavoro, il Jobs Act inizia il suo percorso al Senato, se i sindacati si arrabbiano non è un problema, dice Renzi al Wall Street Journal. Polemiche sul cambio di mansioni del comandante De Falco, quello della notte della Costa Concordia, lui si dice amareggiato. Primo risarcimento per il sovraffollamento carcerario ad un condannato per sfruttamento della prostituzione minorile, ne parleremo tra poco. Saluto intanto il generale Leonardo Tricarico, che è presidente della Fondazione ICSA, è ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica ed è stato anche consigliere militare dei governi D'Alema, Amato e Berlusconi. Generale Tricarico, buongiorno. Buongiorno. Con lei vogliamo parlare di due argomenti. Il primo sono i raid che stanno avvenendo da parte di Stati Uniti e Francia su Iraq e Siria e sul confine. Il secondo, la questione degli F-35, il dimezzamento del programma. Partirei però naturalmente dai raid. Vorrei capire, a suo giudizio, quanto può durare questa operazione e quanto può durare senza truppe di terra? Ma l'operazione potrebbe andare avanti molto a lungo, però c'è da dire che le operazioni aeree, ecco, l'impiego dell'air power, ben presto terminerà di sortire i suoi effetti, avrà, diciamo, dei risultati, come una macchina che comincerà a perdere colpi, a girare a vuoto, insomma, perché è sempre successo così. Negli ultimi teatri di conflitto non c'è stata una modifica sostanziale delle modalità di impiego dello strumento aereo, e quindi, come è successo in Kosovo, in Afghanistan, in Iraq e in Libia ultimamente, anche per la Siria, dopo questi successi importanti iniziali che servono a depotenziare in maniera significativa, se non decisiva, le capacità letali di coloro che oggi fanno strage, ecco, poi inizierà una seconda fase tutta da scoprire, dove le truppe di terra, come lei giustamente segnalava, avranno un ruolo, potrebbero avere un ruolo o non lo avranno a seconda se verranno utilizzate, ma ci sono anche altri assetti importantissimi, poco considerati ora, che dovranno essere fatti giocare. Per esempio? L'intelligence. Ecco, oggi io direi che il contributo più significativo che i paesi arabi che si sono associati e quelli che ulteriormente potranno essere acquisiti alla causa possono dare un contributo veramente determinante per avere notizie, non soltanto per essere una mediazione culturale verso questo mondo sconosciuto, perché a tutt'oggi, insomma, e molti sono ancora oscuri certi lati dei comportamenti, soprattutto dell'ideologia che li ha generati, e quindi mediazione culturale, ma soprattutto indicazione di quali possono essere gli obiettivi che andranno automaticamente esaurendo, se adesso non sapendo più che cosa si può colpire. Fra l'altro bisogna stare molto attenti, come ho già avuto occasione di dire, perché c'è la salvaguardia della vita umana, cioè il pericolo fortissimo che molti innocenti perdono la vita, e la coalizione purtroppo non solo non ci dà confidenza che questo non accada, ma ci dà la confidenza del contrario, la preoccupazione del contrario, e quindi bisogna essere molto attenti, perché gli aeroplani fanno danni, diciamo, anche con armamento estremamente preciso, non certo. È il mezzo idoneo. Certo, poi con naturalmente con un impatto naturalmente umano, come diceva lei, e successivamente un impatto politico, con un'opinione pubblica anche occidentale che di fronte alle morti di civili può non essere più così compatta di fronte ad operazioni di questo genere, e questo naturalmente per i politici rappresenta evidentemente un problema. Vorrei portarla sulla questione degli F-35, questa ipotesi di dimezzamento che è stata nel programma di acquisto di F-35 che è stata fatta ieri, che è stata votata ieri, pur con una mozione, e quindi naturalmente niente che abbia il valore di legge, anche se tutti oggi sui giornali la danno per fatta. Vorrei capire come la inquadra. Guarda, questa iniziativa parlamentare si presta un doppio ordine di considerazioni, una di carattere politico e l'altra tecnico. Ora, io, pur essendo molto ricco il commentario politico, mi astengo ovviamente e vorrei andare sul tecnico, se lei è d'accordo. Poi naturalmente sì, no, assolutamente, anche... assolutamente. Il tema, ecco. Il tema è quello. Allora, guardi, questa iniziativa pecca fondamentalmente. Se no, altrimenti avremmo chiamato un politico, generale. Prego, comunque. Vabbè, ma sono preparato, lei. Penso di essere preparato anche lì, perché come lei ha rammentato, diciamo per 5 anni ho vissuto tra loro, sì, e quindi ne conosco le logiche, penso perlomeno. Sì. Quindi andiamo sul tecnico. Dicevo che la pecca fondamentale di queste 4 risoluzioni approvate, ma ce n'è una fondamentale, quella che porta la firma, il primo firmatario Scano, è che è irrazionale, in presenza di un ministro, fra l'altro del tuo partito, no? Che appena si insedia, cominciando da 3 e non da 0 perché ha già una certa familiarità con i temi della difesa, promette che entro 6 mesi porterà un libro bianco della difesa, documento assente dallo scenario dell'amministrazione di difesa da più di 15 anni, e si incammina su questa strada, naturalmente a mia conoscenza diretta è già molto avanti e quindi manterrà questa promessa. Un documento fondamentale dal quale sarà finalmente possibile capire cosa debbono fare le forze armate, di che cosa hanno bisogno. Ecco, e tu nel mezzo di questo percorso ti inserisci, entri a gamba tesa con una proposta assolutamente illogica, fatta sulla base di considerazioni di carattere politico e tecnico operativo non sempre condivisibili, e trascurando che il documento dirà cosa bisognerà tagliare perché le forze armate oggi fanno e non debbono più fare, e anche qui il campo è molto ricco. Dopodiché c'è un secondo cerchio di tagli, che è quello della razionalizzazione del comparto della difesa, e mi creda, anche qui le economie sono ben superiori a quello che potrebbe dare un taglio delle 35. E poi c'è un terzo ordine di tagli, quello dei programmi di ammodernamento della difesa. Perché accanirsi con l'F-35 quando ci sono tanti altri programmi che naturalmente potrebbero passare in priorità 2 o essere cancellati? Ecco l'irrazionalità dell'intervento parlamentare, e a queste domande che debbono rispondere coloro che oggi hanno firmato quel documento. Allora, la ringrazio, grazie al generale Leonardo Tricarico, perché in realtà è andato sia sul politico che sul tecnico. Presidente della Fondazione ICSA, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e consigliere militare dei governi D'Alema, Amato e Berlusconi, le auguro buona giornata, e noi passiamo a tutt'altro argomento. Il primo risarcimento, 4.800 euro per il sovraffollamento delle carceri, in seguito alla legge approvata a fine giugno, che prevede appunto risarcimento e anche una riduzione della pena. Il punto è che a ricevere questo risarcimento è stato un condannato, tra l'altro, per sfruttamento della prostituzione minorile. Saluto Luigi Pagano, vice capo del DAP, il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria. Buongiorno. Buongiorno a lui. Allora, è evidente che là non si può tanto ragionare sul reato. C'è stata una richiesta, il carcere di Padova, sostanzialmente, da quel che abbiamo capito, ha deciso di applicare la legge alla lettera, no? Beh, non è il carcere, è il magistrato di sorveglianza, perché a lui compete poi la verifica, un istruttore per vedere se esistono, se sono esistite anche quelle condizioni cosiddette censurate con la sentenza Torreggiani, e poi eventualmente determinare anche il risarcimento che è previsto sia dalla legge, ma era previsto anche nelle censure che l'Europa a suo tempo ci fece. E sono sostanzialmente 8 euro al giorno e uno sconto di pena di un giorno ogni 10, no? Mi sembra di capire. Sì, quella che poi è la trasposizione dal punto di vista legislativo per quanto riguarda appunto Strasburgo, sì. Senta una cosa, abbiamo visto che in realtà le richieste che stanno arrivando sono molte, e questo però è il primo caso da giugno. Come mai le amministrazioni, la giustizia va così a rilento su questa questione? Ci sono dei problemi di applicazione? Beh, innanzitutto la norma è nuova e quindi la procedura è un po' farraginosa, nel senso che bisogna prima la domanda, poi ci deve essere l'ammissibilità da parte della magistratura, poi vedere a che periodo, e ovviamente parliamo del passato, ci si riferisce. C'è un contraddittorio, c'è una fase istruttoria per vedere se effettivamente, poi alcuni magistrati di sorveglianza determinano in una certa maniera, altri in un'altra maniera, perché il concetto di trattamento inumano può passare sia attraverso gli spazi, ma può essere ampliato anche al trattamento all'interno del carcere, quindi di per sé non è una materia semplice. Se fosse soltanto il discorso dei 3 metri, si misura i 3 metri e si determina l'ordinanza da parte del magistrato, ma qui veramente è un'istruttoria un po' più complessa e che, ripeto, se poi si riferisce anche ad un passato, quindi fai vedere il detenuto dove è stato, eccetera eccetera, e dai anche tutte le nozioni al magistrato affinché possa decidere. Voi avete già delle proiezioni su quanti risarcimenti lo Stato si potrebbe trovare a dover pagare nei prossimi mesi? No, in questi termini no, perché ripeto, non è un calcolo, il calcolo è, anche lì per quanto riguarda il risarcimento già non è un calcolo di per sé semplice, ma è proprio l'accertamento che è difficile, perché ripeto, se fosse un criterio oggettivo, allora tanto mi dà tanto e non ci sarebbe nessun problema. Bisogna vedere, no, lo possiamo fare nel momento in cui la norma incomincia a prendere piede, incomincia a vedere anche le diverse ordinanze, allora a quel punto là potremmo fare anche un discorso di natura prospettica. Senta, al di là del punto della legge, che insomma abbiamo capito com'è, abbiamo capito che sarà da applicare, per quanto con la serie di difficoltà che lei ci ha enunciato e raccontato, capisce però che insomma, da un punto di vista dell'impressione che fa una vicenda di questo genere è notevole, insomma, sugli italiani, perché insomma, ripeto, parliamo di uno sfruttatore della prostituzione minorile che riceve di fatto dei soldi dallo Stato. Lo so, però potrei trincerarmi del fatto che è legge, però probabilmente bisognava ragionare nel passato, non forse non dovevamo arrivare ad una condizione carceraria che veramente era, come dire, offensiva rispetto a quella che è lo Stato italiano, rispetto a quanto dice la Costituzione, ma rispetto anche al principio di umanità, perché il sovraffollamento, considera che noi l'anno scorso eravamo circa 66.000 detenuti. E i detenuti non sono soltanto quelli condannati, e anche sul condannato uno potrebbe dire io non l'ho commesso il reato, ma contavamo anche gli imputati, cioè persone che sono considerate tutto sommato sino alla sentenza persone imputate, quindi anche lì entrare in carcere magari da innocente e poi trovarsi in una condizione che soggettivamente, ma anche dal punto di vista fisico, non è gradevole, ma un eufemismo, ma molto molto labile, capisce, non è né adeguato né tantomeno normale per un paese come l'Italia, e quindi e quelli sono i correttivi, e eravamo arrivati a una situazione veramente limite. La censura secondo me era giusta, quella ha comportato un'attenzione maggiore sul carcere e per quanto riguarda la fissazione del risarcimento, quello è stato previsto a Strasburgo, e abbiamo cercato, cioè l'Italia ha cercato sia per quanto riguarda lo sconto di pena, anche per quanto riguarda un risarcimento di natura pecuniaria, ma quello era previsto proprio da Strasburgo. Se siamo in determinati organismi bisogna rispettare quelle che sono le norme di questi organismi. Senta, la situazione delle carceri italiane è ancora drammatica però? No, guardi, è molto migliorata. Innanzitutto siamo scesi di circa 12.000 detenuti, adesso siamo 54.500, con la possibilità di poter lavorare finalmente a sistema anche grazie a queste leggi. C'è attualmente in corso la riorganizzazione del regolamento del Ministero della Giustizia e poi anche dei nostri istituti, quindi siamo nelle condizioni non ottimali ma sicuramente molto molto migliori a poter lavorare. Ci sono tutta una serie di problemi dal personale, per polizia penitenziaria, assistenti sociali, educatori, direttori e quant'altro, però adesso abbiamo una base di partenza, sicuramente è un orizzonte anche molto migliore rispetto a prima, dove veramente non riusciva a muovere neppure un detenuto, quindi andava contro il principio della territorializzazione, il trattamento e, ripeto, anche il minimo, l'elementare che nemmeno un posto letto riusciva a dare ad una persona detenuta, e questo veramente non era un sistema che poteva andare avanti. Grazie Luigi Pagano, vice direttore del DAP, il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria. Buona giornata. Grazie a lei. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Il Papa rimuove un vescovo in Paraguay, l'accusa aver coperto abusi sessuali. I raid americani colpiscono petrolio e raffinerie nelle mani dell'ISIS. In Francia bandiera mezz'asta per l'ostaggio ucciso. La riforma del lavoro inizia il suo percorso al Senato. Se i sindacati si arrabbiano non è un problema, dice Renzi. Polemiche sul cambio di mansione del comandante De Falco, quello della notte della Costa Concordia. Lui si dice amareggiato. E avete sentito il promo che racconta la nostra presenza al Salone Nautico di Genova? Noi ci saremo con effetto giorno nella giornata di giovedì prossimo, quindi esattamente fra una settimana. La borsa. Borse in diretta. È una giornata positiva, più 0,78% sul FTSE MIB, più 0,73% sul FTSE All Share, Parigi che guadagna lo 0,31%, Francoforte mezzo punto percentuale, Londra in calo dello 0,08%. Isabella Tasso, Radio Corri, Il Sole 24 Ore, ciao e buongiorno. Buongiorno. Allora, prima un quadro generale molto rapido e poi i due titoli che dei quali mi sembra il caso di parlare oggi, Finmeccanica e Telecom Italia. Prego. Dunque, i listini sono sostanzialmente aiutati un po' tutti dal nuovo indebolimento dell'euro, la moneta unica è scesa oggi brevemente sotto 1,27 dollari per poi consolidarsi poco sopra, questo aiuta un po' tutte le borse. Va meglio Milano, meglio degli altri, grazie ad alcuni titoli che vanno particolarmente bene, come dicevi Finmeccanica che guadagna circa il 3%, questo grazie alla speculazione del mercato sul coinvolgimento della Bombardier e sull'attività dei trasporti che il gruppo italiano intende. Senti Isabella, invece per quanto riguarda Telecom si parla addirittura di una vendita? Sì, Telecom è in netto rialzo, fa più 3%, in questo caso sono indiscrezioni di stampa secondo le quali l'ex amministratore delegato di Telstra Corp starebbe raccogliendo fino a 7,5 miliardi di euro per fare un'offerta su una quota del gruppo italiano, e avrebbe già contattato i fondi sovrani del Qatar e di Abu Dhabi. Grazie Isabella Tasso anche per oggi, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E saluto Gianfranco Svidercoschi, vaticanista, ex vice direttore dell'Osservatore Romano, biografo di Giovanni Paolo II, il suo ultimo libro Ho vissuto con un santo. Svidercoschi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, dopo l'arresto clamoroso dell'ex nunzio Vesolovski, il Papa ha disposto oggi lo spostamento dalla diocesi Ciudad del Este in Paraguay di Monsignor Rogelio Ricardo Livieres Plano, nominando al suo posto un amministratore apostolico. Livieres è accusato tra l'altro di malversazione, copertura di abusi sessuali di preti della sua diocesi. Allora, sono due mosse molto forti e anche di impatto mediatico molto forte, Svidercoschi. Per quanto riguarda questo secondo aspetto, questa seconda rimozione, diciamo, bisognerebbe anzi fare il conto di quello che è accaduto fra il 2009 e il 2010-11, dopo che Benedetto XVI scoprì il bubbone irlandese che ancora continuava, che ci furono lì una serie di dimissioni a catena, veramente di vescovi che erano stati coinvolti come copertura di preti o che non erano intervenuti o che erano in qualche modo anche loro responsabili di qualche caso di pedofilia, ma resta il fatto invece quello clamoroso, come diceva lei, l'arresto del vescovo, cioè adesso c'è un Papa, Francesco, il Papa più evangelico e francescano anche nel nome degli ultimi secoli, che invece deve passare come monarca, l'hanno presentato di una chiesa che non soltanto indaga, non soltanto arresta, non soltanto poi processa, ma addirittura mette in carcere dei suoi figli, delle sue persone, fra i più protagonisti. Quindi credo che sia molto grave quello che è successo. Quanto conta, secondo lei, il messaggio che Bergoglio vuole far passare all'interno della curia e quanto quello che vuole far passare all'esterno? Sono o si equivalgono, per così dire? No, credo che sia soprattutto all'esterno, perché c'è stato un bombardamento, forse non ce ne siamo accorti, negli ultimi tempi su Santa Romana Chiesa, cioè per esempio due incontri di comitati dell'ONU, uno quello sulla tortura che poi non c'entrava niente con la pedofilia e un altro quello invece sui minori e che appunto pretendevano maggior rigore da parte del Vaticano, e ogni volta citavano questo il nome di Vesovoski, perché Vesovoski era da un anno che stava lì, è tolto da Santo Domingo, però non faceva niente, non aveva avuto nessuna indicazione. Anzi, se posso dare una piccola notizia, una piccola grande notizia, questo povero prete, povero nel senso che veramente per le cose tragiche che ha commesso, ma anche per come è stato lasciato per un anno intero lì senza ancora avere nessuna accusa, che a un certo momento disse ad un caro amico: se non fosse per la fede avrei già pensato al suicidio, perché nessuno gli diceva niente, gli diceva finché è arrivato poi nel mese di giugno, poi il primo intervento. E allora ci sono questi interventi da fuori, poi è arrivato il presidente di Santo Domingo a dire al Papa: beh, ma non fate niente, un vescovo di Santo Domingo visto per strada a Roma e Vesovoski, se ha allora che fine ha fatto allora il rigore. In qualche modo questo bombardamento, il Papa è stato costretto a fare qualcosa di più preciso, di più concreto rispetto al passato, a quello che hanno fatto anche con Giovanni XXIII o anche soprattutto con Benedetto XVI. L'unica cosa è che certe volte, anche quando si colpivano dei vescovi, dei missioni, sembrava sempre un discorso all'interno della Chiesa. Il problema è il discorso all'esterno, cioè la Chiesa per troppo tempo ha dimenticato, oltre che prima per certi suoi dirigenti vescovi ha coperto il dei preti, ma si è dimenticata della gente, cioè la gente arrivavano queste notizie e non sapeva più che fare, e non sapeva anche che tipo di fiducia avere nel prete vicino a casa, nel parroco, in questo, e quindi bisognava forse fare qualche gesto che andasse al di là delle grandi, belle, tragiche parole che fino adesso gli ultimi papi hanno detto. E quindi questo è stato un gesto veramente di una eccezionalità, forse anche al di là di quello che oggettivamente forse meritava. Grazie, e grazie per la sua valutazione Gianfranco Svidercoschi, lo ricordiamo, vaticanista, ex vice direttore dell'Osservatore Romano, biografo di Giovanni Paolo II, il suo ultimo libro, Ho vissuto con un santo. Noi, prima di andare in viabilità, vi raccontiamo una storia di camorra che arriva dalla Campania, un arresto importante oggi. È finito in manette Giovanni Marandino, 77 anni, esponente di spicco della nuova camorra organizzata. Era già noto negli anni 70 per aver gestito fino al 79 la latitanza del boss Raffaele Cutolo, fondatore e leader dell'organizzazione camorristica, che adesso si trova in regime 41 bis con 4 ergastoli da scontare. L'ultimo arresto di Marandino risale al 2006 a Firenze. In quella circostanza gestiva un clan nell'isola d'Elba. Le indagini sono partite a dicembre in seguito alle denunce di alcuni imprenditori della provincia di Salerno, che subivano minacce ed estorsioni. Nell'operazione sono state arrestate altre 6 persone, accusate di far parte del clan di cui Marandino è considerato il capo e che operava nella zona della Piana del Sele e nell'Agro Nocerino. Le accuse sono di usura, estorsione ed associazione per delinquere a stampo camorristico. Uno dei 7 fermati, Ciro Casella, è stato trovato in flagranza di reato. Portava un'arma con la matricola cancellata e stava andando a minacciare un imprenditore mentre nella propria auto nascondeva una bomba a base di tritolo. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E domani effetto giorno in diretta dal Cersaie di Bologna, come sempre dalle 13, a tra un attimo con GR24.